as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Questa puntata sarà una puntata in cui parlerò solo io. Sarà una puntata dedicata al referendum, ai 5 referendum. Ci concentreremo sui 4, ma parleremo anche del 5° referendum. Faremo un'analisi di quello che è successo. Cercheremo di capire perché è accaduto quello che è accaduto. Sappiamo tutti quello che è successo, la bassa affluenza, il risultato dei voti, le dichiarazioni di chi ha promosso il referendum. Ne parleremo in maniera approfondita di quello che hanno detto chi ha promosso il referendum, chi era per il no e chi invece ha promosso l'astensione come forma di voto in un certo senso, cioè proprio ha cercato in tutti i modi di portare gli italiani a non andare a votare. Ecco, parleremo di questo e parleremo anche nelle conclusioni di quello che secondo me avremmo dovuto fare, quello che dovremmo fare, quello che chi ha promosso il referendum e tutti gli italiani dovranno mettersi in testa di fare, insomma. Ora ci aspettiamo un pezzo musicale e poi iniziamo subito parlando, insomma, di questo referendum. A dopo. Quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Giusta nazione, hey! Hey! recriminare. Mettiti in fila e torna a lavorare. E se proprio non trovi niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare. Perché in nome del progresso della nazione, in fondo puoi sempre dicare. Avanti, in fila per tre. Allora, dopo aver ascoltato questo pezzo, tutti voi sapete che il referendum è andato male. Landini, nella conferenza stampa che ho seguito mentre facevo lo scrutinio dei voti alle 4, perché sono stato anche scrutatore, volevo dire che nel seggio in cui io voto il quorum è stato abbondantemente superato. Nel seggio in cui io facevo lo scrutatore si è quasi raggiunto il quorum, però il risultato, magari avessimo avuto quel risultato, parliamo di quasi un 47%, l'avessimo avuto a livello nazionale, sarebbe stata una vittoria. Sì, perché Landini ha ammesso la sconfitta alle 4, questa conferenza stampa in cui i giornalisti gli hanno fatto tutta una serie di domande, ha ammesso la sconfitta, però ha detto, insomma, ci sono 14 milioni di voti, un 30%, chiaramente non abbiamo vinto perché noi puntavamo a raggiungere il quorum e abrogare queste leggi, e io vorrei riassumerle in certo, perché ho capito tantissime cose facendo lo scrutatore nel seggio in cui ero, che c'erano tantissime persone che non erano assolutamente a conoscenza di quello che andavano a votare. Ho assistito a soprattutto giovani, ma non solo giovani, persone che erano veramente in difficoltà, gente che guardava fuori dal seggio tutti i vari quesiti. Devo dire che i quesiti erano molto molto complicati, se uno si leggeva la scheda elettorale o leggeva quello che c'era scritto fuori, faceva fatica a capire cosa andava a votare. Dunque, non so se può essere un dato statistico, ma quello che io ho notato nel mio seggio, ed è un seggio in cui, ripeto, il 47% è andato a votare, e sì, sono stati nei primi 4 molto alti, stiamo parlando sempre sull'80-90%, purtroppo il quinto quesito non ha visto un sì stravolgere, ma in realtà c'è stata una vittoria, si dice sì, ma non così plebiscitaria, e questo fa anche riflettere che qualcuno non ha ritirato la scheda, è successo in diverse sezioni. Qualcuno ha votato no, qualcuno ha votato la scheda, è stato uno dei quesiti che ha fatto più insomma, discutere, è stato divisivo in un certo senso. Però parliamo di questi quesiti, per chi non è da votare, per chi ha votato ha avuto delle difficoltà, diciamo chiaramente che il primo quesito andava ad abrogare la norma del Jobs Act in cui si affrontava la questione delle tutele crescenti, insomma si abrogava la riforma del Jobs Act legata all'ex articolo 18 e si ritornava all'articolo 18 modificato con la Fornero, che ripeto, anche qui la destra e anche la CISL e anche altri hanno detto che sarebbe addirittura peggiorata la riforma, non è assolutamente vero, la Fornero sicuramente aveva peggiorato l'articolo 18, l'aveva reso più difficile da attuare, ma c'era la possibilità di reintegro anche sulla Fornero. Col Jobs Act fondamentalmente il reintegro era molto difficile ottenerlo, e subentravano queste tutele crescenti, queste indennità, che chiaramente erano più alte di quelle della Fornero, ma non dava la possibilità del reintegro dove si era licenziati senza giusta causa. Il secondo punto, anche qui molti erano veramente titubanti, non riuscivano a capire, molto semplice, anche perché si sono fatte sui social, si è sentito di tutto, la destra ha fatto una propaganda assurda, no? Dicendo che fondamentalmente i padroni, piccoli padroncini addirittura erano costretti a pagare cifre esorbitanti, non è così, semplicemente si modificava una norma che prevedeva 6 mesi di indennizzo in caso di licenziamento senza giusta causa nelle piccole imprese sotto i 15 dipendenti. Ecco. Il terzo punto era un punto, io penso, molto molto importante, che parlava fino a poco tempo fa, quando si assumeva un precario bisognava dare una spiegazione sull'assunzione del precario. Allora, fondamentalmente si reintroducevano le cosiddette causali. Cosa sono le causali? E quando si veniva chiamato un lavoratore, un precario, bisognava mettere una causale. Perché si assumeva questo precario a un tempo determinato? C'era una causale. E oggi si può fare un contratto fino a 12 mesi senza introdurre queste causali. Bisognava abrogare questo. Questo era importante perché restringeva molto la possibilità al datore di lavoro di poter assumere ragazzi in continuazione dopo 12 mesi, poi mandarli a casa senza dover giustificare perché venivano mandati a casa, ecco, molto semplicemente. Poi il quarto fondamentale, io penso che anche qui, anche la destra che non va a votare sulla sicurezza negli appalti, voglio dire chiaramente che la Meloni era contraria al Job Act, non ha votato a favore, adesso si è astenuta. Questa qua è anche la coerenza del governo di destra che noi oggi abbiamo, no? Poi parleremo anche della questione politica. E il quarto quesito è un quesito che io faccio sempre, l'esempio di morti di Suviana, nel senso che l'Enel, quando è stata coinvolta, ha detto: ma io non c'entro niente, alla coda di un appalto, quel tipo di lavoro, è proprio lì il concetto. E le ragioni del sì, insomma, bisogna che chi affiglia il lavoro sia anche responsabile della sicurezza di chi lavora nel tuo cantiere. Non si può demandare la sicurezza alle aziende che vengono a lavorare, insomma, nel tuo cantiere. La responsabilità deve essere del committente, deve ritornare a essere così. In questi anni le leggi hanno fatto sì che le responsabilità sulla sicurezza sul lavoro cadevano sulla ditta che prendeva il lavoro e non chi dava il lavoro, insomma, in appalto. E il quinto è sulla cittadinanza, diminuire gli anni da 10 a 5, anche qui discussioni su discussioni effettuati anche nel seggio, perché c'era gente che fondamentalmente su questo referendum aveva delle idee completamente folli, cioè come se domani tutti, insomma, gli immigrati, c'è chi parlava di islamizzazione dell'Italia, ci sono state delle discussioni furibonde anche con gente di sinistra, perché non si è capito che fondamentalmente le condizioni per ottenere la cittadinanza rimanevano le stesse. Cioè, se uno delinque, se uno è un criminale, se uno non ha le caratteristiche per diventare cittadino, non lo diventa comunque. Era un modo per dare una mano soprattutto a quei ragazzi che dopo 18 anni si trovavano ad avere problemi di avere la cittadinanza, soprattutto se non erano figli di cittadini, perché il problema è proprio questo. E qui veramente si è fatta molta propaganda, molta. Si è veramente buttato del fango su tantissimi ragazzi, tantissimi lavoratori, i quali fondamentalmente lavorano, si comportano bene, ed è giusto che dopo 8 anni abbiano la cittadinanza. Ora, questo è un risultato veramente che, dal mio punto di vista, io non mi aspettavo un grande risultato, ecco. Perché sono sempre stato contrario ai referendum. Il risultato del 30% però non è quello, non è il problema. Io ho notato una cosa, che moltissimi lavoratori non sono andati a votare. Ecco, io userò una terminologia molto dura, molto forte, che me l'ha insegnato un vecchio delegato sindacale della Bonfiglio del Dottore, che mi disse: purtroppo gli operai alcune volte si tagliano i coglioni perché la moglie gli mette le corna, ecco, per fargli dispetto. Io ho notato che moltissimi lavoratori non sono andati a votare, c'è chi ce l'aveva con Landini per colpa del Covid, per il Green Pass, per i vaccini obbligatori, e chi invece diceva che, insomma, ce l'aveva col PD, che aveva prima fatto il Job Act, adesso era per abrogarlo, e dunque non erano coerenti. E sicuramente tanta propaganda ha fatto sì che chi doveva, aveva l'obbligo di andare a votare, perché parliamoci chiaro, io sono convinto che il fatto dell'astensionismo quando si va a votare le politiche e le amministrative, cioè è chiaro che ci sono tanti lavoratori che non credono più in nulla e non si sentono rappresentati da nessuno, ma in questo caso io credo che sia stato un errore non andare a votare, soprattutto per tutte quelle persone che erano direttamente interessate a questi quesiti, assolutamente interessati, perché qui non c'è da dare un voto per rappresentarti in Parlamento. Io non ho fiducia di questa persona, non vado a votare. Qui bisognava abrogare delle leggi che fondamentalmente, se fossero state abrogate, un ragazzo assunto dal 2015 in poi avrebbe avuto più diritti. Una persona che lavora nel mondo degli appalti avrebbe avuto più sicurezza. Un lavoratore che lavora in una piccolissima azienda sarebbe stato più tutelato. Un ragazzo che è figlio di immigrati che non sono cittadini, dopo i 18 anni, figlio di università, avrebbe avuto la cittadinanza, non avrebbe dovuto aspettare 15 anni, perché sono 10, ma in realtà diventano 15. Infatti in questi 5 sarebbero diventati 10, ma è già tanto. Dunque, per queste persone che non sono andate a votare, hanno sbagliato. Hanno sbagliato, perché fondamentalmente, ripeto, non era da... Chi mi conosce sa che dove non c'è il mio partito faccio fatica anche a io andare a votare, normalmente, però vado a votare perché comunque è giusto dare il voto a partiti che rappresentano la mia classe, la classe lavoratrice, e ho sempre fatto questo. Però capisco delle persone che sono deluse dalla politica, deluse dalla sinistra, ma c'è anche chi è deluso dalla destra, perché anche la destra non mantiene promesse, fa degli sbagli enormi, delude i suoi elettori. Ma in questo caso no, in questo caso io posso capire solamente quelle persone le quali non avevano nessun interesse in questi referendum, addirittura avrebbero avuto un danno se questi referendum fossero passati. Poi c'è tutta un'altra serie di persone alle quali non interessava, perché non sono coinvolti. Se non hanno un danno, tipo i padroni, è chiaro che avevano un danno se questo referendum fossero passati, ma compreso quella della cittadinanza, perché avere dei lavoratori senza cittadinanza ancora legati alla Bossi-Fini per un padrone è un vantaggio. Significa avere dei lavoratori ricattabili, ricattati. Quando un lavoratore ha la cittadinanza ha la possibilità di lottare, di combattere per il proprio posto di lavoro e per il proprio salario. Senza cittadinanza si fa molto più fatica, perché c'è sempre la spada di Damocle del fatto che li possono sbattere fuori dall'Italia, gli tolgono il permesso di soggiorno e tornano in Italia. Dunque, questi referendum per i padroni, per chi sfrutta gli immigrati, per chi sfrutta i lavoratori, per chi vive sulle spalle dei lavoratori, o semplicemente chi ha delle piccole attività o ha delle partite IVA, ma questa gente qui, ripeto, questi referendum è chiaro che l'hanno boicottato. Oppure, bene che se avevano coscienza civile, sono venuti a votare, hanno votato no. Poi c'è tutta un'altra, tantissima gente che non si sente solidale con queste persone, che hanno bisogno di abrogare queste leggi, chi è tutelato con l'articolo 18, chi lavora in fabbrica, un pensionato, tutto il resto, che dice a me non mi interessa, sono problematiche a me, io non vado a votare. E lì c'è un problema, secondo me, di mancanza della politica. Io sono sempre del parere che comunque sia i referendum li devono votare solo gli interessati, solo quelli che sono veramente interessati. In fabbrica io, come delegato sindacale, ogni volta che c'è qualcosa di specifico che riguarda una categoria di lavoratori, io la faccio votare solo a quei lavoratori, perché è chiaro che, ripeto, questo tema era un tema che fondamentalmente riguardava una fetta di italiani. Certamente non riguardava le partite IVA, guardate che sono tanti, certamente non riguardava gli imprenditori, sono tanti. Chi lavora nel pubblico fondamentalmente se ne è fregato, ma la maggior parte, ma non solo. chi è tutelato, chi ha le tutele, chi pensa che suo figlio comunque non farà l'operaio, non farà il lavoratore dipendente, non ci andate a votare. O se l'ha fatto per solidarietà, per coscienza politica, quella che oggi manca in Italia. I referendum avevano un senso perché sono stati fatti dei referendum in passato, come il divorzio e l'aborto, che riguardavano tutti. Non è un caso che quello sulla scala mobile, che riguardava solo i lavoratori dipendenti a cui si applicava la scala mobile, non passò. E ci fu un boicottaggio forte di tutto il resto degli altri. Il governo si impegnò, come ha fatto adesso, a boicottare quel referendum, perché gli interessava che non passasse. Ecco perché il referendum spesso, su alcune battaglie che non riguardano tutti i cittadini italiani, sono molto pericolosi. Però quello che a me fa rabbia, ripeto, è che la gente che aveva un interesse enorme in ad abrogare queste normative, queste leggi, non è andata a votare. Per tiramenti di culo, veramente. Un errore enorme. Non ci aspettavamo di vincere, perché, ripeto, in Italia è veramente difficile vincere un referendum, che, ripeto, che affrontava delle questioni di classe. Cioè, io conosco della gente che ha dei bar, dice, ma erano proprio quelli proprio, chi faceva i parrucchieri, ma il figlio dell'imprenditore enorme dice, ma l'ha boicottato in maniera tremenda questo referendum. Cioè, lui non mi interessa, anzi è uno spreco di denaro pubblico, cioè voi state sprecando i soldi, no? E infatti io dico, sì, infatti queste battaglie noi dovremmo fare delle battaglie, degli scioperi, delle manifestazioni per rivendicare i nostri interessi, come fanno i tassisti, come fanno vari lobby in Italia, no? Quelli che hanno gli stabilimenti balneari. È possibile che noi lavoratori non possiamo, siamo tanti, sono 14 milioni che sono andati a votare, sono forse 15, ma siamo anche di più. Noi avremmo dovuto andare a votare, io penso che 30 milioni di persone potevano andare a votare tranquillamente, ma anche 25, senza nessun problema, ci riguardava a noi, non la totalità degli italiani, ma ci riguardava. Questo è il concetto che io volevo esprimere, e mi dispiace che, ripeto, non mi aspettavo di vincere questo referendum, non l'ho mai detto, ma ero molto titubante. Io all'interno della CGIL e della FIOM ero contrario assolutamente a questo referendum, ripeto, sono perché le battaglie di non tutti gli italiani vanno affrontate tra di noi, dobbiamo fare gli scontri, cioè, come il contratto ai meccanici. Noi metalmeccanici dobbiamo tenerlo noi contro i padroni, e in questo caso i lavoratori dipendenti avrebbero dovuto veramente lottare e far sentire la propria forza contro un governo che ti faceva delle leggi contro di te, che le faceva contro chi non è lavoratore dipendente, sia chiaro. La solidarietà di classe purtroppo oggi non c'è su questi argomenti, purtroppo, ed è palese, e bisogna ricostruirla attraverso un grande partito e fare politica. Ecco, adesso sentiamo un altro pezzo e poi facciamo delle piccole e brevi conclusioni. Parleremo dell'aspetto politico di questo referendum. Allora, quello che mi ha più scioccato è stato quello che ha detto Lady Schlein, i vari Calenda, Renzi, la destra, che si ha detto siamo più forti, perché insomma questo referendum ha fatto capire che i cittadini sono tutti con noi, insomma. E dunque, praticamente, secondo la destra italiana, gli anarchici hanno vinto le ultime elezioni, visto che gli anarchici non votano, le ultime elezioni chi non ha votato è stato il partito di maggioranza per il 45%, anche di più, e dunque mi state dicendo che gli anarchici in Italia sono la maggioranza. Non è così. E non è nemmeno così quello che dice Lady Schlein: abbiamo preso più voti della Meloni, dunque abbiamo vinto. Io penso che Landini abbia detto una cosa giusta, però spero che la porti avanti. Landini ha detto che dobbiamo ripartire questi 14 milioni. Io nell'ultima puntata che abbiamo fatto l'avevo detto, se vinciamo dobbiamo comunque continuare a lottare, perché faranno di tutto per ripristinare le vecchie leggi sulla precarietà, sulla sicurezza e sui diritti dei lavoratori. Se perdiamo, dobbiamo fare la stessa cosa. Oggi dobbiamo ripartire da questi 14 milioni e cercare di essere credibili per arrivare almeno a 25, 30, perché quelli siamo noi. e dire agli altri: guardate che noi siamo una parte importante di questo paese. Voi noi non siamo, così come ho visto nei social, che diceva andate a lavorare, adesso finalmente potete andare a lavorare, no? Dei piccoli imprenditori che scrivevano sui social, ho notato che li conosco, adesso finalmente dovete cominciare a lavorare, insomma, non avete capito. Siamo noi che mandiamo avanti questo paese, oggettamente uno che sta in un bar, che fa la birra. Sarà importante, sì, sarà per il mio spirito, ma poi siamo noi quelli che portiamo avanti questo paese, siamo noi quelli che costruiamo i ponti, le macchine, le case, tutto di questo paese. Siamo noi quelli che trasportiamo le merci, siamo noi quelli che lavoriamo e siamo noi quelli che sopportiamo lo sfruttamento. Dobbiamo innanzitutto noi essere uniti e lottare, perché questa battaglia non è finita qui, è appena iniziata. Io spero che Landini mantenga le sue promesse, ma ho dei dubbi, perché questo referendum ha smobilitato qualcosa che si era creato, come lo sciopero generale del 29, che aveva visto veramente un forte successo. I lavoratori hanno voglia di lottare, ma seriamente. E non ci basta nemmeno più dire, vabbè, abroghiamo, ritorniamo all'articolo 18. Noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo affrontare questioni più importanti, che sono la crisi industriale di questo paese, i posti di lavoro, la precarietà, le pensioni, che purtroppo io penso che se avessero ad esempio fatto un referendum per abrogare la Fornero, io voglio vedere che caspita faceva la destra se invitavano ad andare a votare, visto che ha fatto una campagna per abrogare la Fornero. Lì sarebbe stato veramente carino vedere quello che avrebbe detto Salvini e la Meloni. Io penso che sia stato anche un errore da parte di Landini, in un certo senso, intestarsi troppo questo referendum. Io penso che avremmo dovuto fare un passo indietro, dire questo referendum è di tutti, anche della destra, visto che Meloni ha votato contro il Jobs Act, non è del PD né dei 5 Stelle, e dire questo referendum è di tutti i lavoratori. Noi ci mettiamo, noi siamo i primi a dire che abbiamo fatto degli errori in passato e adesso vogliamo veramente cercare di risolvere. Cioè, ci voleva più umiltà, più allargare. I sindacati di base si erano aperti tutti, avevano fatto un grande sforzo a dire, vabbè, siamo tutti quanti per il sì, coinvolgere tutti, i sindacati di base, tutti, cioè tutti, chiamando anche la destra a dire, avete votato contro il Jobs Act, venite con noi, perché era veramente di tutti, bisognava essere veramente inclusivi in questo caso. Invece purtroppo per molti è stato come votare il PD o i 5 Stelle, dare come dare forza a loro e andare contro il governo, e questo ha fatto arrabbiare molti lavoratori, dal mio punto di vista, è stato un errore. Però ripeto, questo referendum forse non doveva, ormai è stato fatto, ma bisognava fare delle battaglie, delle lotte, bisognava, e speriamo che questo referendum serva a compattare, a creare delle alleanze. Veramente Landini ha detto che ha capito che bisogna parlare con i lavoratori, spero che lo faccia veramente e non parli con l'Eachline e con Conte, non ci interessa parlare con loro, ci interessa parlare con la gente e capire veramente quello che vogliono. Se facciamo questo, queste leggi ce le porteremo a casa, senza il referendum, senza un partito che va e cambia le leggi, ma con la nostra forza. Speriamo che questo accada ed è l'unica possibilità che noi abbiamo. Alla prossima puntata.